Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, amici ascoltatori. Franco Piantarini in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ieri sera ho capito una volta di più la differenza che c'è tra Milano e Cantù, oltre che tra Milano e Siena, quella che c'è tra una squadra vera e un gruppo di giocatori che squadra ancora non sono. L'Emporio Armani Milano perde in casa con il Real Madrid 65-72, partita e una buona fetta di Eurolega, perché a questo punto serve un'impresa per una squadra che sta per perdere Danilo Gallinari, che martedì tornerà negli Stati Uniti. Impresa che consiste nell'andare a vincere a Istanbul con l'Efes in casa con lo Charleroi e soprattutto nell'ultima partita a Belgrado al Pionir con il Partizan, dovendo anche ribaltare la differenza canestri, quindi serve una vittoria di almeno 5 punti. Milano mezza fuori, Cantù che sta provando con tutte le sue forze e lo merita in maniera assoluta di passare questo turno in Eurolega. Ieri una partita incredibile contro il Calaboral Vittoria 71-68, con Cantù che al 35esimo vinceva di addirittura 21 punti sull'onda del solito straordinario Gianluca Basile, ma di una squadra che ha un'anima vera e grande. E poi è stata praticamente agganciata da Vittoria con un mostruoso Teletovic, sempre più superstar e miglior marcatore dell'Eurolega, e ha trovato l'energia che serve per uno scippo di Cinciarini, per il canestro della vittoria di Mazzarino e per una grande festa. Siena, che non sta benissimo, è andata a vincere sul campo di Lubiana 63-57 ed è passata, questo è matematico, con 3 turni di anticipo sul termine di questa prima fase. Si tratta di vedere la posizione. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao coach. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Danilo va via e Milano che è mezza fuori dall'Eurolega, quarta sconfitta consecutiva. Da dove arriva questa involuzione, se è un'involuzione, coach? Innanzitutto io penso che il tempo sia contro Milano, sì. E tutta l'Eurolega si disputa alla fine di ottobre, tutto novembre, inizio di dicembre, fino al 21 dicembre. Avessero fatto tutto questo inizio, diciamo, a gennaio, secondo me sarebbe stato diverso. Milano sarebbe stata più collaudata come squadra, come Cantù che e Siena, due squadre che hanno tenuto un nucleo di giocatori con qualche innesto. Tu hai citato benissimo Gianluca Basile, mettono uno qui, uno là. Milano ha fatto una rivoluzione, nel senso che ci sono 9-10 giocatori nuovi, allenatore nuovo, è tutto nuovo e ci vuole un attimo di tempo. Purtroppo questo girone dell'Eurolega è venuto anzitempo, molto in fretta per loro. Hanno fatto la prima vittoria contro Maccabi Tel Aviv, contro questa battaglia con il tempo. Però la cosa che è data la svolta è che c'è sempre in queste cose un attimo, se posso usare questa parola qua, è stato contro Partizan, sì. Più 21, sì. Entrare all'ultimo quarto più 17 e la parziale di 30-9 a favore di Partizan, compreso un parziale 17-0. E quindi questo ha veramente rovesciato l'Eurolega, la stagione e altre cose, e le conseguenze di questo risultato veramente lo stanno pagando, secondo me, molto molto caramente in questo momento qua. Però avessero vinto la partita con Partizan, con tutte le possibilità, sì, del, sì, mondo di farlo, non saremmo qui oggi a parlare di questo. Secondo me sarebbe perché questa è una squadra, la fine della fiera è una battaglia, ha battuto Siena, tanto per dire, certo. Però quando hanno perso quella partita con Partizan, lì veramente hanno veramente perso più che una semplice partita di basket, hanno veramente creato una difficoltà di Euroleague che c'era già per la sconfitta con Efes in casa, e quello lì ha complicato tutta la vita, sicuro, tutta la stagione. Beh, basta leggere la classifica che oggi dice Efes, Maccabi, Real Madrid 10 punti, Partizan 8, Milano 4, Charleroi 2. È chiaro che la differenza sta tutta in quella partita che tu citavi, senza contare poi che è vero, va via Gallinari, ma nel Real Madrid vanno via Rudy Fernandez e Ibaka, che ieri ha fatto tutta la differenza del mondo in chiave difensiva, e quindi Real Madrid non avrà questi due giocatori, ad esempio, la prossima sfida con il Maccabi. Questi sono altri discorsi. Senti coach, via Danilo tocca agli altri. Erston però è rotto, ha problemi fisici insieme a Borussis, Nicolas, come dicono nel calcio, non struscia pallone e ormai meriterebbe una riflessione. Tocca agli altri. Quindi va via anche il parafulmine, se vuoi, o il paravento. Tocca agli altri, bisogna vedere però gli altri quanta ne hanno, perché anche Cucchi ieri sera è stato poco convincente. In questi casi, tutto questo mi ricorda gli anni 70, quando io allenavo la Virtus Bologna, per esempio, e ogni squadra aveva un giocatore straniero. E la grande, il grande problema per tutti gli allenatori, tutte le squadre, è questo qui. Ah, momento importante, diamo la palla all'americano, ci pensa lui, ok? E non dico, che questo sia successo con Danilo, però Danilo aveva un'importanza capitale adesso, che non dico che abbiano ceduto la responsabilità del, non dico questo, ok? Però c'era la tendenza di dire diamo la palla al giocatore più forte, tanto per dire, tanto ci pensa lui. Adesso che va via Danilo, è vero quello che dicono tutti, dice Scariolo e compagnia, tutti avranno più responsabilità. E in questi casi qui lo paragono anche con un infortunio al giocatore migliore della squadra. Per esempio, io ho citato sulla Gazzetta l'altro ieri, un anno era qui a Bologna con la Virtus, Terry Driscoll, miglior giocatore americano, miglior giocatore della squadra, si fa male alla schiena ed è fuori per 5 partite. Abbiamo vinto tutte le 5 partite perché tutte le altre si sono tirate insieme, hanno dato qualcosa in più e abbiamo fatto il risultato. Milano deve fare adesso la stessa identica cosa. Non possono dire, oh, è andata via Danilo, cosa facciamo? Devono dire, ok, è andata via Danilo, tocca a me, tocca a noi, è la nostra opportunità, dobbiamo sfruttare questa occasione, dobbiamo far vedere quanto valiamo noi. E questo è veramente la sfida che rimane per la squadra e per tutti quanti. 800 24 00 24 per parlare con noi di basket oggi. Un'ultima battuta, visto che eravamo su paragoni con il passato, se me la consenti. Cantù assomiglia molto, secondo me almeno, al tuo primo Billy europeo, quello di Meneghin Gianelli, che ti ricordi bene, arrivaste in finale. Cantù non ha la possibilità di arrivare in finale in Eurolega, però è una squadra meno forte di altre, ma con grandi palle, con una grande anima. Loro veramente hanno grandissimo per me dedizione al lavoro. Loro vanno in campo mentre magari altre squadre dicono vediamo come va la partita. Loro non dicono questo, lo dicono 40 minuti giocate alla morte insieme tutti quanti e leggiamo il tabellone alla fine. Poi tu hai fatto benissimo di nuovo ripetere e citare Gianluca Basile, è stato un acquisto veramente azzeccato. E tu hai citato Real Madrid che perde due elementi, hanno già firmato Kyle Singler, americano del Duke, 2,5 metri da Alicante, che dove giocava. Quindi le mosse non sono finite ancora. Io penso che anche Siena, secondo me, ha gli occhi aperti per il mercato, a dir poco, in Milano ovvio. Grazie coach, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Grazie coach Dan Peterson. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Uno di questi messaggi è: comunque Milano gioca male anche in campionato, scrive un ascoltatore. E di certo non si può dargli torto. Palla spicchi. Silvio che scrive: che dire di questo incredibile Biella che a momenti batte pure Siena. Caro Silvio, di Biella diremo dopo, perché abbiamo un appuntamento telefonico proprio per parlare di campionato, di temi del campionato e di Biella, che tra l'altro domenica se la giocherà con Avellino e potrebbe giocarsela per il primato, almeno per qualche ora, visto che c'è Siena-Cantù. Big match di domenica sera. Il popolo della rete su Facebook, vi ricordo il nostro contatto Facebook, naturalmente c'è chi scrive: due domande, perché così tanto Nicolas e così poco Fozzis a proposito di Milano? Vi do anche qualche dato sempre su Milano, vi do un paio di dati e poi una frase, una questione affrontata da AS, quotidiano spagnolo, sul suo sito internet. Allora, qualche dato: Nicolas 17 tiri, di cui solo 4 a bersaglio. Fozzis che ha sporcato il suo score soltanto per un rimbalzo, pensate un po'. Cook 0 assist, 30 tiri da 3 punti sui 61 tentati totali per Milano. Gallinari 7 volte ha tirato da 3 punti su 9 tiri complessivi. Doppia doppia per Mirotic. Rodriguez, che resta un signor giocatore, che segna 19 punti e fa un mazzo così a Cook. E As, che scrive appunto sul suo sito internet: a Sergio Scariolo manca la panchina, vedere Giachetti marcare Sergio Rodriguez è una burla, così scrivono i colleghi spagnoli. Cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde, poi ne abbiamo anche per Cantù, in ben altri termini. Dionigi, proprio da Cantù, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Dica. Ieri sera ho avuto la fortuna di essere a Desio a vedere la partita di Cantù. Devo dire che proprio come diceva lei prima e come credo possa confermare il grandissimo allenatore che è Dan Peterson, la differenza la fa la squadra, perché credo che Milano e Cantù abbiano dei buonissimi giocatori entrambe le squadre. La differenza la fa veramente l'abitudine quotidiana ad allenarsi e quindi a lavorare insieme quotidianamente, sì, per poi metterlo in pratica durante le partite. Beh certo, ma a Milano manca anche il tempo, cosa che Cantù ha avuto per crescere, ha lavorato benissimo per un tempo che, come lei sa, è stato sufficiente per costruire la squadra che Cantù oggi è. A discolpa di Milano, ma questo è un dato oggettivo, c'è il fatto che è totalmente nuova e che ha un allenatore che è arrivato soltanto 2 mesi fa, Sergio Scariolo, come sapete. Dunque l'attenuante esiste, però a questo punto sarà necessario vedere dei progressi e secondo me sarà necessario anche operare sul mercato per una Milano che così com'è non riuscirà ad andare da nessuna parte in Europa e che a questo punto dovrà costruire anche un po' più in fretta, o potrà costruire anche un po' più in fretta per il campionato. Giorgio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Farò un paio di considerazioni sull'Olimpia. Per me, sono anche abbastanza fiducioso sul campionato, perché ho visto una squadra giocare a testa alta e alla pari con le migliori d'Europa in questa Eurolega. Naturalmente sono deluso per come è andata, anche se vincerla non pensavo, però almeno arrivare un po' più avanti, sì. Sì. Vedo ogni tanto dei blackout, non so perché, in certe partite, anche col Partizan ieri, col Maccabi, hanno dei blackout in cui si tira solamente da 3. Sì. E non c'è nessuno che prende rimbalzi, cioè fare le cose semplici in certe occasioni, secondo me, invece di andare a forzare anche certi tiri da 3. Ma guardi, posso dire, a casa, Giorgio, certe partite. Però posso dire, secondo me a Milano è anche un problema di equilibrio e di leadership. È chiaro che adesso partirà Danilo Gallinari, che è dovuto rimanere, ma per forza di cose, ai margini di questa squadra in termini di equilibrio, proprio di leadership. No, non è entrato in questa squadra in punta di piede soltanto per dare una mano, ma come era stato chiaro fin dall'inizio. Per fare quello che lei dice, insomma, ci vogliono delle gerarchie stabili e diverse. In questo momento Milano non ha un capo giocatore, non ha un leader nemmeno tecnico, ha molti buoni giocatori. Insomma, deve costruire a questo punto Sergio Scariolo, con la partenza di Nino Gallinari e magari l'arrivo di qualcun altro, dovrà costruire delle gerarchie precise. Cantù sa dove andare nei momenti di difficoltà, come ci può confermare, io credo, il nostro amico Bruno Arrigoni. Ciao Bruno. Sì, in rianimazione possiamo dare come bravo. Difficoltà. Ecco. Milano is fashion, Cantù is devotion. Questo lo striscione visto ieri sera a Desio. Ostia, che roba. No, non l'ho visto, però è carina. Non l'hai visto? Non è no, vero. Non l'ho visto, però è carina. Non è male, non è male. Senti, Basile nell'ennesimo momento straordinario della sua carriera. E pensare che quest'estate, quando è arrivato, ci sono stati dei pensieri anche sul Baso. No, pensieri no, però sicuramente questo il suo piede sfortunato aveva creato qualche perplessità. Poi dopo, approfondendo tutto, siamo stati molto soddisfatti che non fosse stato un falso allarme. Lui fa del lavoro suo specifico con il nostro preparatore e ecco, chiaramente la sua è una gamba, è un piede provato, ecco, dall'esperienza, ecco, e dal tempo, ecco, noi ce lo teniamo, ce lo curiamo e siamo felici assolutamente di averlo, perché partite come quella di ieri, che poi ne ho già fatte un altro paio, chiaramente ti danno una bella mano, perché nel momento in cui magari tutti i meccanismi non sono così oliati e così precisi, il fatto di avere un giocatore che si possa con un mezzo passo in arretramento creare la separazione sufficiente per liberarsi un tiro e che lo metta dentro, soprattutto ti dà un bel aiuto, ti fa respirare. Famoso step back, mentre ti faccio notare che non sei ancora venuto a trovarci qui in studio quest'anno. Ti faccio notare questo. Trascurate. No. E sarà al contrario, semmai. Vabbè che sei sempre in giro per l'Europa. Io però ho un ascoltatore. Senti Bruno, ho un ascoltatore che su Facebook scrive, tale Alessandro, scrive questo: fuori Lighty e Horner, dentro un play americano e un Lumos Barton a caso e siamo da Final Four. Evidentemente un vostro tifoso. Io dico che Cekic non c'è più in questa stagione, poveretto. Siete, questa squadra merita un po' di soldini per metterla a posto, io credo. Che sia Renci, che sia Barton, che sia chi vuoi, però dovrai lavorare, credo, adesso, nelle vacanze di Natale. Adesso, diciamo, riflessioni, sono riflessioni difficili, sono importanti, è da tanto tempo noi che ci guardiamo dentro, cerchiamo di capire dove... Cosa funziona e cosa non funziona. Ecco, è chiaro che l'incidente di Cekic ha accelerato un po' i tempi, perché è chiaro che era un giocatore importante, un giocatore anche che non una stella, però sicuramente un bel blue collar, come dicono gli americani, di quelli che veramente fa un lavoro, lavoro sporco, un lavoro importante, si fa sentire sul campo. Ecco, adesso dobbiamo cercare di capire come aggiustare un po' come metterci. I nomi che sono stati fatti sono nomi reali, veri, ecco, che noi abbiamo cercato di contattare, che abbiamo, ecco, però al momento non abbiamo ancora fatto niente, anche perché vogliamo ancora capire bene qual è la cosa migliore o qual è la meno peggio, che forse va bene lo stesso. Ecco. Vi sentite pronti per attaccare sul serio Siena, Bruno? Domenica c'è il confronto diretto, un confronto diretto che vale il primato. Siena è attaccabile quest'anno, non possiamo più parlare come tu hai fatto, e io ti cito sempre, di gioco dell'oca, perché non è più questione di andare in prigione e restare fermo un giro. Stavolta si può fare. Ma io dico che per quello che riguarda noi, insomma, giocare giovedì in Coppa per noi, dopo a giocare la domenica, sempre, specialmente fuori casa, è sempre un po' così, terro all'otto. Abbiamo visto domenica scorsa, ecco, a Roma la squadra è arrivata in fondo, ecco, veramente senza benzina, ecco, per cui la partita di Siena certo che non ci aiuta, ecco, perché avremmo avuto bisogno di un bel turno di riposo, ecco, da calendario, che invece a noi tocca non lo so quando, signore di fulmini tutti, ecco, però ecco, oppure che non ci tocca mai, saremmo sempre l'unica squadra che non riposa mai. No, già. Mai. Ecco. Giocate sempre. Ecco, però sicuro è un impegno veramente importante. È chiaro che noi andiamo là per fare bene, non andiamo là per dire va bene, adesso questo qui è un momento, è un apostrofo verde, sì, fra due partite di coppa, ecco, no, è una partita importante che vogliamo onorare, però noi in questo momento non siamo nelle condizioni migliori. Ieri molti hanno stretto i denti, hanno giocato sul male. Io ho qualche, ecco, ascoltatore preoccupato per Liunen, mi arrivano un sacco di sms su Liunen che è in un momento di flessione. Ma ieri, a dire il vero, lui già si è corso tutta la partita, ha corso dietro a Teletovic, che mi è sembrato già un bel impegno, ecco, perché Teletovic ovviamente è un campione di primissima fascia. Ecco, non ha fatto tiri buoni e qualcuno ha tirato, però non tutti i tiri proprio, sì, erano proprio tiri facili, anche se magari era libero, però non era nelle condizioni di fare un tiro facile. Insomma, noi sappiamo, questo, lui è un giocatore tecnico, ha bisogno di essere innescato, però dopo si è battuto in difesa, ha preso 7 rimbalzi, insomma è un giocatore che dopo ha al suo perché. Un'eccellente professionalità, un eccellente spirito di gruppo, così. Noi lo aspettiamo fiduciosi, ecco. Ripeto, domenica è la partita che noi cercheremo di onorare al meglio, cercando di fare il colpaccio se saremo capaci, però sicuramente non capita nel nostro momento più facile, sì, della stagione, perché ci portiamo dietro degli acciacchi che sicuramente la Coppa non aiuta a lenire. A smaltire, ecco, non c'è dubbio. Ecco. Senti Bruno, io ti aspetto qui però, al prossimo giro, non ti telefono più. Ti telefono solo per invitarti. Okay. Va bene, e io ringrazio tutti. Grazie Brunetto, grazie Bruno Argoni, l'anima di Cantù. Ciao. Carlo da Milano, buongiorno. Buongiorno, tifoso da 35 anni dell'Olimpia, anche se ero junior della Mobil 4, non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo e come. Perfetto. No, volevo parlare un attimo di Scariolo, se posso. Sì, rispondo, ecco, io però dopo la borsa. rimanete in linea? Sì, grazie, meglio, perché abbiamo la borsa che insomma in questi momenti, in questi giorni, in questo momento storico è particolarmente calda. Palla spicchi. Torniamo insieme con Carlo da Milano, da 35 anni tifoso dell'Olimpia, però giovanili nella Mobil 4. Ecco, no, Luca, allora volevo parlare un attimo di Scariolo, no? Sì. Ecco, io trovo che lui sia bravissimo e secondo me non c'era niente di meglio per la nostra squadra che prendere un top allenatore. Contesto un pochettino l'approccio e mi spiego. Allora, io penso che troppe volte io ho letto, ho sentito che lui sostiene che abbiamo una squadra fenomenale, siamo una squadra da Final Four, una squadra fortissima. Ecco, io penso che da un lato l'approccio giusto non può essere quello della squadra umile, siamo comunque Milano, abbiamo una storia e soprattutto in questo momento c'è bisogno di caricare, no? Di rilanciare. Sì. Dall'altro non trovi delle volte che cioè, c'è un po' troppa sopravvalutazione realmente del nostro della nostra capacità. Cioè io vi ricordo una cosa, sempre citato Dan Peterson, io mi ricordo che Dan Peterson diceva sempre degli avversari: grande squadra, grande difesa, ci vorrà grande partita. Cioè non l'ho mai sentito dire siamo i più forti. Insisto, non bisogna stare schisci, come si dice a Milano. Sì. Però delle volte non trovi che Scariolo non capito se lo fa per autoconvincersi o per convincere di avere una grande squadra con Carlo, i risultati. Onestamente, no, ma onestamente Milano è una squadra che ha materiale umano a disposizione. Secondo me la cosa che manca effettivamente è il tempo per mettere insieme i tasselli. Non dimentichiamo per l'appunto che Scariolo ha cominciato la scelta di Scariolo è indiscutibile, siamo tutti d'accordo, allenatore top a livello europeo e stiamo dicendo delle banalità, ha cominciato a lavorare con questa squadra 2 mesi fa. Ora ci sono dei nodi da sciogliere perché Airstone è senz'altro un califfo, è un giocatore però che sta giocando sul dolore, ha dei problemi. Cook è un giocatore che non ha ancora preso in mano del tutto questa squadra e poi in accoppiata con Giachetti, non sono d'accordo con quanto scrive Ass, secondo cui Giachetti che marca Sergio Rodriguez è una burla. Giachetti è un ottimo cambio per una squadra da Eurolega, però sono due playmaker che fanno fatica a fare canestro. Nicolas disperso nella nebbia, non si è mai visto realmente a Milano ed è stato preso, giocatore che ha vinto tutto quello che si poteva vincere con il Panathinaikos, insomma è stato preso per fare canestro e anche ieri, leggo le cifre, ha tirato, a differenza di altre volte, almeno 14 tiri, però 17 tiri, ma ne ha segnati soltanto 4. Dunque Milano, Fozzis l'ha preso per un altro tipo di gioco, non certo per prendere un rimbalzo, punto e stop, senza neanche un tiro nel corso di una partita. Insomma, il materiale c'è, la condizione mi sembra così, è chiaro che Milano a questo punto dovrà operare sul mercato, perché la partenza di Gallinari, che pure andava in un ruolo in cui si diceva anche l'altro giorno con Luca Chiabotti, Milano in overbooking, no? Quello dei numeri 3, quello degli esterni. Ebbene, Milano dovrà riassettare la sua squadra a seconda delle esigenze. È chiaro che un conto è passare il turno in Eurolega, andare avanti e magari con l'idea di combinare qualcosa di buono. Un'altra storia sarebbe quella di poter giocare soltanto e dover giocare soltanto per il campionato. Credo che anche questo influirà sulle valutazioni di mercato che a Milano stanno facendo. Vi ho promesso che avremmo parlato di Biella e di campionato prima. Lo facciamo con un altro amico che aspetto di nuovo su questi schermi qui con me. Anche lui quest'anno non è ancora passato per Radio 24. Marco Atripaldi, presidente di Biella. Ciao Marco. Ciao, buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori e vengo presto, basta che ci organizziamo, voglio dire. faremo in modo, caro Marco. Anche quest'anno discreta pesca in America per voi, eh? Aubrey Coleman e Jacob Pullan mi sembra una delle coppie più belle del mondo, almeno del nostro mondo. Ma sai, dunque, beh, Aubrey, noi insomma l'avevamo già avuto l'anno scorso e quindi lo conoscevamo, cioè è stato determinante per salvarci nelle ultime 3 partite dell'anno scorso. Quindi sì. Avete fatto il test alla fine dell'anno scorso, test ampiamente e poi, superato. Sai, lui rifirmato a Montegranaro mentre a Porto San Giorgio, se la squadra festeggiava, io ero fuori con Mario Scotti. nel rifiumarlo. Perché comunque un giocatore di quel tipo lì, in un posto come il nostro, in una squadra del nostro livello, del nostro target, è fondamentale, perché ti aiuta a salvarti, una guardia sì. che può segnare, che ti dà 5-6 rimbalzi a partite, recuperi, fa tante cose, un positivo di carattere, perfetto. Sì. Pullen, sai, noi eravamo partiti nella campagna acquisti a cercare un playmaker europeo alto. Sì. Abbiamo preso un americano di 1,83, 1,85, perché è. Ci vedeva perché ci piaceva, no? Giocatore super che doveva essere scelto al primo giro, c'è stata una grande polemica su allenatore del college di Kansas State, ha fatto tutta la storia per dire come mai questo non è scelto al primo giro, che ha giocato meglio di gente che è stata scelta al primo giro solo perché è piccolo. Lui bastava vederlo giocare, un capo vero, no? Lì. E quindi corri il rischio, perché sai che comunque è un giocatore che ha qualità, poi deve migliorare, ha un sacco di cose da fare ancora, sì. Però per essere un rookie è uno che controlla il gioco, il che è tanta roba. Ah, certo, è uno che controlla il gioco e che fa canestro, perché è il secondo miglior marcatore del campionato dietro Von Weiss. Ha fatto le partite da 30, le partite da 7 punti, però non è che si è vinto perché faceva 30 o 7. Squadra ha sempre giocato e questa è la cosa più importante. Sicuro. Senti, tra l'altro si diceva la settimana scorsa con Gian Maria Vacirca, en passant, per Biella questo storicamente l'anno sì, fai gli scongiuri che vuoi, però... No? Salvezza presa per i capelli l'ultima giornata e l'anno dopo invece si fanno altre cose. Io ho fatto due salvezze prese per i capelli sì. l'ultima giornata, quindi prendendo per buona la scaramanzia, diciamo che dovrebbero essere 2 anni sì, no? Sì. Speriamo che questo sia il primo di 2 anni sì. Io mi basterebbe un anno un po' più tranquillo degli ultimi due. Sì. Ma sarebbe sufficiente non dover arrivare all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Sì, ecco, ti accontenteresti di quello. Assolutamente sì. In un enorme equilibrio generale. Sì, sì, sì, ogni partita veramente ha storia a sé, questo vale anche per le grandi squadre quest'anno. Che voto dai a questo campionato, Marco? Come qualitativo, Ma è sicuramente la qualità più alta rispetto agli anni passati, non c'è dubbio, ci sono giocatori più forti, ci sono squadre più forti, mediamente, e c'è un equilibrio maggiore, lo vedi dalle partite, quasi tutte le partite finiscono in equilibrio. Non puoi dare mai un senso di il più forte e il più debole, perché poi Milano va a Caserta e perde, perché Caserta sta facendo molto bene, ma Siena rischia, anche Siena. La novità più eclatante è quella che, e voi lo sapete perché siete andati a un palmo da proprio tanto vicini, sì. Ma tanto vicini come competitività, lascia stare che poi eravamo avanti a 2 minuti dalla fine, ma il problema è che l'abbiamo giocato davvero la partita. In passato potevi anche stare vicino a Siena, ma tanto sapevi che non ce la facevi mai. Sì. Quest'anno per la prima volta dopo tanti anni ho avuto la sensazione che la potevo vincere la partita. Sì. Questo è il cambiamento reale che c'è in questo campionato al momento. Anche se poi Siena, se prende Omar Thomas o un giocatore di quel livello lì, secondo me rimette un pochettino di spazio. Sì, però comunque la sensazione che hai avuto tu e che è generica, generale, no? È che Siena quest'anno comunque sia attaccabile. E tra l'altro domenica Biella Avellino magari si gioca per il primato, anzi si gioca per il primato almeno per un paio d'ore. Questo sì, ma è un paio di settimane che giochiamo partite per il primato, la storia fa abbastanza ridere, non male, siamo tanto abituato, ma noi, come dire, davvero non ci pensiamo a questo, non è il motivo, noi cerchiamo punti salvezza, è chiaro che le partite in casa, anche se noi insieme a Siena abbiamo il miglior record esterno al momento, cerchiamo i punti in casa, anche perché insomma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi, anche se Avellino chiaramente è una squadra che in questo momento ha qualcosa più di noi, se non altro sotto il profilo dell'esperienza e del gruppo. Sì, non della continuità magari. Non della continuità, però i loro high sono veramente high. Sì. Se quando giocano, giocano. Quindi è visto domenica scorsa contro Pesaro. Presidente, dimmi un'ultima cosa, ma tra una partita e l'altra il vecchio Soragna come lo conservate? Lì c'è un segreto. Lo mettete in frigorifero. Sì, lui è fondamentale per noi per tanti motivi. Lo so, te lo chiedo apposta. Quindi e tutti mi dicono: ma Soragna non può giocare 38, Soragna non può giocare 35, Soragna non può giocare così tanto. Io dico sempre a tutti: dovete andarglielo a dire voi, però lui, perché lui uscire dal campo non è che è contento, no, proprio no, proprio no. E bisognerebbe vederlo anche allenarsi. Marco, un'ultimissima cosa davvero prima di salutarti del traffico. Invece, questa Milano così in difficoltà tu te l'aspettavi? Cioè, fisiologico per una squadra che ha iniziato a lavorare molto tardi, che è completamente nuova e che deve metabolizzare un giocatore che adesso parte, come Danilo Gallinari, che però non è mai stato realmente parte di questa squadra. Beh, è fisiologico questo o no? La cosa che hai detto forse è la cosa più vera. Questa è stata una squadra costruita in un certo modo, con certe gerarchie. Poi è arrivato Danilo, voglio dire, meno male che è arrivato, no? Credo, sì, per tutti. Sì. Però è stato un elemento, come dire, estraneo, tra virgolette, cioè non era atteso, non doveva fare parte delle gerarchie, ha fatto molto. La vera squadra la vedi senza di lui. Tanto gli altri giocatori sono sufficienti, secondo me, per stare in campo, no? Quindi credo che anche per Sergio sia stato non semplicissimo gestire tutto questo, oltretutto lui era con la nazionale, insomma tutta una serie di cose che per chi guarda superficialmente da fuori magari contano poco, in realtà sono molto vere, quindi quanto stai con una squadra, quanto la puoi allenare, quanto puoi scegliere di dare fiducia a questo e a quello. Sicuramente la questione Gallinari molto positiva su un senso, certo. Stiamo parlando di un giocatore straordinario e di un ragazzo straordinario. Certo, però un po' destabilizzante da un altro. Un po' destabilizzante lo è per forza, quindi è inutile nasconderselo. Certo. No, sinceramente non pensavo che Milano avrebbe avuto questi problemi in coppa. Peraltro se li è creati da sola con quella sciagurata partita. Col Partizan, non c'è dubbio. La sciagurata partita, una straordinaria partita è uno sciagurato ultimo quarto, quindi un pezzo di partita dentro una ottima partita, ecco, perché avesse vinto quella partita lì che era avanti 20 e guarda cosa è successo a Cantù l'altra sera. Certo, ma la differenza, come oggi dicevo prima, stiamo parlando di un'altra cosa in Europa almeno, assolutamente, la differenza però è tra la squadra vera che riesce a saltare quello scoglio come Cantù e Milano che invece su quello scoglio si arena e per quattro partite non vince più. Marco, ti ringrazio, grazie Presidente, okay, alla prossima. Ok, ciao. Ciao. Grazie Marco Tripaldi. Palla spicchi. Lorenzo, provincia di Ancona, poi Giorgio da Pesaro. Buonasera Lorenzo. Buonasera, salve. Volevo fare una domanda sull'NBA, anche se non avete ancora parlato. Ne parliamo. Sul lockout. Volevo chiedervi se innanzitutto secondo voi cambieranno anche un po' le strategie dei training camp visto la stagione ridotta, quindi la preparazione, e se una squadra data per tutti come mai bollita, fallita come i San Antonio Spurs, con una stagione più corta e con l'esperienza del vecchio lockout possono ancora dire la loro. Grazie. Sì, grazie a lei. Io girerò tra poco questi interrogativi a Flavio Tranquillo che sta per raggiungerci. Io credo comunque che la risposta sia sì ad entrambe le domande, almeno per quanto mi riguarda. Cambierò la strategia del training camp, anche se io mi aspetto un primo mese di NBA stile All-Star Game, cioè qualcosa da coprirsi gli occhi con giocatori che sono, dicono le cronache, ampiamente fuori forma, ampiamente fuori condizione. Dunque mi aspetto il primo mese di NBA non su livelli di un grande spettacolo cestistico. San Antonio Spurs, secondo me, come l'altra volta, adesso non so quanto valgano queste suggestioni, però può essere da corsa. Giorgio da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, io chiedo scusa, mi sono collegato solo ora e ho sentito un responsabile del Biella, non ho capito chi era. Marco Atrepaldi, presidente. Oh, complimenti. Ha detto una frase che mi ha fatto andare il sangue al cervello, perché sono tifoso da Scavolini. È la Scavolini che ha perso a Pesaro, non l'Avellino che ha vinto. E lui va a Avellino a vincere tranquillamente, perché l'Angelico è una squadra molto molto ben messa e non deve nessuna paura, glielo dico io. Pesaro rimane abbastanza misteriosa, è una squadra che ha grande qualità ma grandi alti e bassi, un po' come Avellino, peraltro. No, ma guardi, Pesaro lei non so se l'ha vista, sì, in televisione, aveva preso la partita a due minuti alla fine, ed era vinta. Bastava che la panchina, e mi permette di dirlo, che l'ha detto anche oggi sul giornale, si è giustificato che ha fatto le stronzate, le stupidaggini, non l'ha perdesse, perché a quel punto l'ha perso la panchina, i giocatori in campo si erano ammazzati per vincerla, glielo posso dire io. Quindi lei comunque dice, vi faccio i miei complimenti, che siete una grande trasmissione. Grazie Giorgio. Ma quindi lei dice che il problema di Pesaro la panchina, io non credo, sa? In quella partita lì, la panchina può sbagliare, e oggi su sul Carlino Pesolo diceva che aveva avuto delle responsabilità, ma si può sbagliare, come la panchina sbaglia, come quando uno tira che è libero e sbaglia, pazienza, sì, tutti possiamo sbagliare nella vita. Sì, sì, sì. Resta una squadra di grande talento, Pesaro un po' ondivaga. Squadra di grande talento, grandissimo talento, un po' ondivaga. Grazie a Giorgio, saluto per mettere cappello a questa trasmissione. Flavio Tranquillo, ciao Flavio. Buongiorno. Ti giro subito un interrogativo precedente di un ascoltatore che riguarda l'NBA. Flavio, cambieranno le strategie dei training camp con una stagione ridotta? Strategie di preparazione con giocatori sono stati fermi tantissimo e dicono le cronache molti sono in pessime condizioni fisiche. Ulteriore quesito sempre dello stesso ascoltatore: in una stagione ridotta, San Antonio un po' al così sul Sunset Boulevard può essere pericolosa? Cambieranno per forza, perché sono training camp molto particolari per il motivo che hai detto tu, perché in parallelo va la free agency, quindi sono training camp in cui potrebbe succedere che in 9 si comincia con 10 giocatori, di cui 2 se ne vanno l'11 e altri 2 arrivano il 13. Una delle possibilità è che non ci siano partite di pre-season, proprio perché c'è talmente tanto bisogno di allenarsi che la partita sarebbe vista quasi come una perdita di tempo, per dire a che livello di differenza siamo rispetto al training camp virgolette normale. Sì. Spurs, non credo che 66 invece che 82 in questo tipo di finestra temporale facciano così tanta differenza, sono 16 partite in meno, ma sono più partite per settimana, quindi il fatto logorio o non logorio conta il giusto. È vero però che questa è l'ultima occasione e questa è una squadra che sparerà tutto, e soprattutto, come nel caso delle altre, finché non si è fermata la pallina con i free agent e tutto il resto, non sappiamo chi gioca contro chi, quindi dobbiamo sospendere il giudizio. Anche loro potrebbero fare delle operazioni importanti, una per tutte è liberarsi del contratto di Jefferson con la famosa regola dell'amnistia, poi però lì bisogna vedere chi ci mettono, se ci mettono qualcuno, eccetera eccetera. Certo, mai sottovalutare l'orgoglio di questi campioni, dici tu. No, perché comunque been there than that, dicono dall'altra parte dell'oceano, ci sono stati e lo hanno fatto, e quindi su un campionato così corto e così imprevedibile e con così poche fondamenta è sicuramente un vantaggio. C'è un altro ascoltatore che invece via SMS ti chiede se Von Wafer, quello che abbiamo visto qui, che stiamo vedendo con Cremona, lascerà l'Italia secondo te, cioè troverà un contratto nell'NBA questo giocatore? È un giocatore che può interessare di là? Beh, può strainteressare di là, però effettivamente ci sono stati anche dei motivi per cui all'interesse tecnico non è sempre corrisposto uno stesso interesse a 360 gradi. Senz'altro un giocatore di livello NBA, non dico di prima fascia, ma immediatamente dietro, senz'altro ha avuto qualche problema a trovare stabilità nell'NBA in passato. È una risposta veramente impossibile. Considera che quando si dice non c'è stato contatto tra giocatori ed NBA prima, noi immaginiamo sì vabbè però comunque si telefonavano, sì vabbè però dei messaggi si rimandavano, no ragazzi, cioè le punizioni sono talmente pesanti per cui non c'è stato contatto. L'NBA è iniziata davvero l'altro ieri. Certo. Prima di capire che piega prenderà ci vuole un po' di tempo. L'ultima cosa, Flavio, invece, Gallinari parte martedì, no? Sappiamo, paradossalmente Milano può liberarsi di un peso, sembra una bestemmia, una bestialità questa, ma può accadere questo? Ma non lo so, mi sembra un po' curioso, cioè se il bilancio dell'esperienza Gallinari è il Messia all'inizio e il peso alla fine, temo che sia una lettura un po' superficiale, un po' legata a suggestioni e basta. O cioè meglio, all'inizio può togliersi un paravento? Gli altri possono capire che serve una maggiore responsabilizzazione? Beh, io penso che non so se è solo un discorso di responsabilizzazione in primo luogo, perché quando stabilmente hai determinati problemi, soprattutto nella metà campo offensiva, non so se è solo un fatto di responsabilizzazione, ma temo che sia anche un fatto tecnico, di chimica di squadra che non puoi mai conoscere finché non hai messo assieme i giocatori per davvero, e questi in attacco a naso mi sa che non stanno tanto tanto bene insieme. Però adesso da qui a dire basta che vada via Gallinari per fare 80 punti a partita invece che 60 mi sembra tanta roba, non mi sbaglierò io. Tantissima roba. Ci sentiamo domenica, Flavio, grazie. Grazie. Sì, signore. Grazie, saluti. Alla prossima. Grazie anche a Franco Biancalino per il lavoro in redazione, a Filippo Aureggio in regia con lo sport. Torniamo e sarà Andrea Zorzi domani pomeriggio alle 5. Buona giornata.